Per tutti coloro che hanno il dubbio che in realtà sia venerdì pomeriggio, vi assicuro tranquillamente che non è venerdì pomeriggio, quindi state assolutamente tranquilli che non c'è nessuna desincronizzazione spazio-temporale. Però questo è il Grande Reset, questo è Runtime Radio e su runtimeradio.it siamo in questa puntata speciale di domenica passate le 17.30. C'è anche la clap, oggi, vero? Bravi! Bravi, è tipo una puntata live praticamente. E siamo qui con Kayla Dahmer. Ciao a tutti. Tipo la sincope, cioè, avete presente la sincope? Però adesso gli passa tutto, è vero che ti passa tutto? Sì, mi passa. Aspetta, mi metto un po' così perché sennò non ti vedo. Oggi parliamo di te. Parliamo di te come creatrice dei contenuti, ma anche non soltanto, perché spazi in varie... in varie cose e poi parliamo anche un pochino di intelligenza artificiale, che non ne parliamo mai, è un argomento di cui non se ne parla mai, quindi alla fine in qualche maniera insomma ce lo buttiamo in mezzo. Tu sei tranquilla in questo momento? In che senso? No, nel senso ti sei acclimatata? No, assolutamente. Vabbè, ma ti acclimaterai? Speriamo. Perché io poi l'ho vista un'intervista tua live in un canale americano, quindi... Non era live. Beh, però era come se fosse live. No, era live, era in diretta, si poteva commentare. Sì, ma tanto tempo fa, parlo di 3-4 anni fa almeno. Era in inglese. Beh sì, vabbè, adesso cominciamo con questa tematica che poi dopo. Però insomma, poi se, allora, ve lo dico subito, se ogni tanto escono fuori parole tipo Sgeneschwens su Friends, beh, purtroppo è... È deviazione professionale. Deviazione professionale, giustamente. Non è per insultare la lingua italiana. No, che si insulta già abbastanza da sola, poi, tutto sommato. Non è che noi possiamo solo da qualche spintarello ogni tanto. Insomma. Va bene. Comunque, allora, mi ricollego al fatto, così facciamo pure un po' di pubblicità, che tu sei stata il primo racconto pubblicato come audio racconto su Tra le righe, la biblioteca parlante, che è questo ennesimo esperimento che facciamo su Runtime Radio, che ha i suoi pro e i suoi contro. Se non altro, i suoi pro sono quelli di portare avanti un progetto, di mettere a disposizione uno spazio delle persone che magari vogliono far conoscere i propri racconti, insomma, no? Quindi tu ci hai prestato, diciamo, il tuo primo racconto, no, non è il tuo primo racconto, il nostro primo racconto, che, se non mi sbaglio, si intitolava Orange is the New Black. Sì. Da dove esce fuori un racconto, tra l'altro, secondo me, l'ho trovato geniale e divertente. Allora, l'idea veniva da un'antologia che non so poi se è stata pubblicata, sinceramente non credo. Comunque il racconto non è stato scelto, quindi che era appunto un'antologia per, cioè, prendere per il culo. Partecipavi a un'antologia, però poi non è stato selezionato. No, ho provato a mandare il mio racconto per vedere se veniva scelto. Tra l'altro era una cosa gratis, non pagavano. Okay. Cosa strana per gli Stati Uniti. Però mi piaceva l'idea, siccome conosco la persona che l'ha avuta l'idea, ho scritto questo racconto con la collaborazione dell'intelligenza artificiale. Poi ci fermiamo anche un po' sul termine, perché questo termine di collaborazione, dato che io ultimamente insomma un po' mi ci sono cimentato, però collaborazione è un po' fuorviante se ci pensi, però comunque dai, poi ci arriviamo. Sì, poi ci arriviamo. E quindi era appunto l'antologia dedicata a Trump, a prendere per il culo Trump. Ah, proprio tutta l'antologia? Sì, sì, tutta l'antologia. E quindi mi ci sono buttata così. Forse sai perché non ti hanno accettato? Perché tu, anche se loro volevano prendere per culo Trump, vedere un italiano che prende per culo Trump per loro era troppo. Sono andati out of... Non lo so, non mi sono più interessata, non ho neanche più scritto per capire insomma se... Che cosa era successo, sì. Insomma. Vabbè, ci hai provato, hai buttato là. Però cioè, l'hai messa a disposizione perché... Sì, sì, perché mi piaceva come idea, mi sono divertita a scriverla, mi diverto a leggerla ogni tanto. Sì, ma poi devo dire che... allora, il podcast mio sta migliorando dal punto di vista dei rifusi, delle sbiaficature strane, insomma, roba del genere. Però lì, diciamo, due o tre erroretti ci sono, però devo dire che tutto sommato reggeva anche il tono con un racconto che è comico. Comico è... Tragicomico. Sì, diciamo che è un po' Rick e Morty, se vogliamo, insomma. Un po' lo ricorda, dai, ce l'ha un po' sto stile, sto tipo di satira, tra l'altro con tutta questa cosa della moltiplicazione dei Trump, che è una cosa inquietante. Io mentre lo leggevo mi veniva l'ansia, tutto sommato. Cioè sì, era divertente, però anche no, cioè. Paura. Tipo, mi immaginavo questa assistente, vabbè, comunque recuperatevi, ma si può scaricare da qualche parte, non mi ricordo. Sì, credo che sia disponibile gratis sul mio sito. Sul tuo sito, che sul mio sul negozio. Il sito è keiladamar.com/ita. Comunque sulla pagina principale, okay. keiladamar.com c'è il link per il sito, okay. Italiano, perché okay. Il sito è in inglese. Sì. No, ma però c'è anche in inglese. Il racconto io l'ho scritto in inglese, okay, poi l'ho tradotto in italiano. Ok, perfetto. Quindi sì, se sì. Uno vuole, comunque se vuole cimentare, no? Comunque alla fine tu sul sito keiladamar.com, giusto? Sì. Ok, sia che sul sito inglese che sul sito italiano lo trovate, quindi decidete voi poi insomma come cimentarvi, no? Pure scaricateli tutti e due e li... Oddio, sai che in inglese mi sa che non l'ho messo. Non l'hai messo. Lei non mi è preparata, signora. Però. No, ci sto pensando adesso. Non l'ho messo, okay. Per questioni politiche. Perché non voglio fare politica all'estero. Io non parlo di politica. Ah, non parli di politica all'estero, però c'hai scritto un racconto. Perché quella è politica poi alla fine. Eh sì, vabbè, ma non è stato pubblicato. Ah, quindi è come se non fosse esistito, tu dici. No, esatto. Già non esistono, vabbè, se vengono pubblicati, perché non è che sono famosa. Ma tu scrivi fantascienza. Io, la fantascienza fondamentalmente, è, sì. È politica. Cioè, sì, politica, ma è nascosta. Dipende poi dalla fantascienza. È nascosta. Ho comprato qualcosa, mi prometto, giuro su che mi ci metterò a leggerli perché voglio esplorare. Poi ne parliamo un pochino. Insomma, comunque, vabbè, questo racconto devo dire ci è piaciuto. È piaciuto anche perché ho avuto anche dei feedback. Ed è stata una bella sperimentazione. Tant'è che abbiamo una coda di cose da distribuire e produrre, ci vorrà un po' di tempo perché non è così immediato, no, fare sto podcast, però poi tu ci hai dato anche diciamo un racconto, non un racconto, è un romanzo poi alla fine, cioè un romanzo breve. È una storia breve, sì, no? Sì. Base 9001 è una storia breve, sì, quella nuova. Una novella, chiamiamola una novella. In italiano i racconti lunghi sono... Novella. Ok. In italiano, mentre che novel... In inglese. Sì, lasciamo perdere l'inglese, no. C'è tutta un'altra classifica. Tu parli in inglese, io te faccio il voiceover, tranquillo. No. Però lo faccio quello russo. No. Che abbiamo parlato prima, no, fuori onda. Parliamo in italiano. Sì. Va bene, comunque questo racconto ci è piaciuto tanto. Molto, molto ci è piaciuto. Ed è completamente avulso da tutto il resto delle cose che tu fai poi in generale. Sì, in linea di massima, sì. Sì, ma come... Come nasce sta cosa? Allora, prima di tutto penso che nasce da una passione sul genere letterario, fantasy, fantascienza. Beh, sì. Tu dici la passione per la fantascienza o per scrivere? No, allora partiamo dalla fantascienza o anche del fantasy, perché io comunque non so quanto è il tuo rapporto col fantasy, ma immagino insomma che... Beh, insomma, Tolkien è il mio autore preferito, anche se poi non scrivo... In tolkienese? No. Beh, no, troppo aulico. Sì, no, vabbè. Poi, diciamo che quel tipo di fantasy oggi reggerebbe anche poco, anche se... Ma credo che regge. Sì, qualche autore ancora sul molto classicheggiante, insomma. Sennò poi se finisce diventa come Terry Brooks, no? Conosci Terry Brooks, sì, immagino. Sì, no? Conosco, anche se non ho letto... Mai niente, no, vabbè, lo bestemmiavano tutti perché diceva che lui era il copione, anzi era il Bignami del Signore degli Anelli, poi fondamentalmente. Io sono parzialmente d'accordo, anche se io l'ho amato molto, la saga della Spada e Sciannala, perché forse è stato il primo libro fantasy che ho letto nella mia vita. Da lì è poi stato un turbine, cioè nel senso sono... Quindi vabbè, da quando nasce la passione della fantascienza? Da bambina, perché guardavo Spazio 1999, grande. Guardavo... ci abbiamo Star fatto Trek, la puntata. La serie originale, come l'hanno trasmessa in Italia. Vabbè. Sì, su Telemonte Carlo. Beh, dove non me lo ricordo. No, vabbè, te lo dico io. Mi fido. E quindi fondamentalmente dalla TV inizialmente, e poi ho cominciato pure a leggere i libri di Urania, del Mondadori, e poi ho spaziato su altre cose. Tieni presente che adesso sono tipo 30 anni che leggo fantascienza e comunque fiction in generale esclusivamente in inglese, quindi... Okay. Cioè del mercato italiano proprio non so più niente. Vabbè, ma non è che sia un mercato... ne parleremo quindi... di questa cosa, perché scusate, io faccio ganci, perché a gennaio esce il primo episodio di un podcast nuovo di Runtime che è proprio dedicato esclusivamente alla fantascienza italiana. Quindi... Italiana. Okay. Italiano, no, di podcast e trasmissioni che parlano di fantascienza ce ne sono. Sì. Ok, invece è un fenomeno molto particolare, molto, molto culturalmente legato alla nostra identità, la fantascienza italiana, che poi tu devi considerare che il fantastico in Italia è stato bestemmiato da Leopardi e da Manzoni, e quindi basta, cioè, stigmati definitive. Quindi noi abbiamo sempre avuto questa difficoltà, come se non fosse una letteratura degna, no? Certo, ma anche all'estero però, Sì, anche all'estero. Forse in Italia di più però, perché comunque alla fine la fantascienza all'interno della narrativa, della fiction, della televisione, del cinema, in America in particolare, c'ha un posto abbastanza rilevante, insomma. Sì, però in letteratura, cioè anche Tolkien ha avuto difficoltà ad essere accettato come... letteratura, sì. Fantasy e monnezza. Sì, anche se negli ambienti letterari, no? Parlo nelle università, nelle accademie. Tanti libri che oggi noi consideriamo grandi libri non sono minimamente all'altezza dell'opera letteraria di Tolkien, che dietro c'è pure uno studio linguistico, c'è tutta tanta roba dietro, insomma. Quindi... Però vabbè, comunque. Vabbè, quindi tu poi alla fine a un certo punto, dopo Urania, crescendo, insomma, ti sei dedicata alla lettura in inglese. Sì, beh, insomma, negli ultimi 30 anni, ecco, nei primi 20 leggevo in italiano. Okay. Io l'ultimo libro che ho letto di fiction in italiano è stato Harry Potter e il principe mezzo sangue. Ma possiamo fare, ma a te ti piace Harry Potter? L'ho letto, cioè, tutto. Tu ti consideri una fan di Harry Potter? Io lo sai che non so niente di Harry Potter. Sì, dell'autrice no. Però, no, vabbè, ok, quello poi negli ultimi tempi l'abbiamo scoperta per quello che è, insomma, giusto, Walter? Non ascolta. Che c'è, un malo così da niente? No, così, no, è così. Sì, tu, quando c'è da biastimare i fascisti, tu fallo sempre. Dello stomaco. Perché non è e poi prima di andare a mangiare la pizza non si può fare, no? Sì, lì è, vabbè. Comunque, vabbè, quindi a te ti piace Harry Potter? Perché io conosco tantissima gente che è innamorata di Harry Potter, io zero, proprio zero. E poi anche persone, insomma, che considero pure intellettualmente, culturalmente preparate, che mi dicono: ma tu devi leggere i libri? Credo che tu dovresti leggerli, sì. Perché sono scritti bene. Ok. ti dirò, io un po' ci sono cresciuta, tra virgolette. Quello forse è un vantaggio. Però, beh, ma ero già grande, stavo già con Michele. Ah, okay. Non è che, però, per esempio, il fratello invece c'è cresciuto, quindi ho visto lui crescere insieme a Harry Potter. Michele forse sarebbe il marito, per chi non... Sì, Michele è mio marito, Shuren. E suo fratello è cresciuto con Harry Potter. Forse più o meno c'hanno la stessa età, non so. Comunque, lui mi prestava i libri in italiano, io me li leggevo in italiano e poi li leggevo anche in inglese. Ok, vabbè, quello ci sta. All'inizio, insomma, per cominciare. Questo io lo faccio con i film, lo sai? Cioè, io guardo il film in italiano e poi me lo guardo e me lo anche gusto di più in lingua originale. Perché, vabbè, ovviamente il doppiaggio italiano è bello, tutto quello che ti pare, ma chiaramente se perde il 50% dell'intenzione. I doppiaggi italiani non li sopporto più ormai. Però ripeto, ormai sono 30 anni che. Sì, ma è vero pure così. Che pure la qualità è scesa tanto in generale. Perché una volta il doppiaggio era dedicato a determinate opere, oggi si doppiano talmente tanta roba che alla fine c'è Porsche e cani, diciamo così. Insomma. Scusa, nel frattempo devo governare una questione che mi si è aperta perché ho toccato un tasto che non dovevo. Però è tutto a posto. Non è esploso niente. Niente bombe. Per ora, sì, sì. Poi ne parleremo della famosa bomba termonucleare di Monterotondo. Se ne parlerà, insomma. Faranno Oppenheimer 2, cioè la bomba di Monterotondo. Però poi dal passaggio... Anzi, sai, facciamo? Mettiamo il primo brano. Okay. Che dici? Così poi passiamo invece al quando io lo faccio come me. Io ascoltavo i podcast e sono diventato uno che fa i podcast. Tu leggevi i libri e a un certo punto hai detto: oh, ma quasi quasi. Che dici? Non è andata proprio così, però. Vabbè, la facciamo andare com'è, insomma. Sì. Dici il primo brano, dici il primo io brano. Io ti devo dire il primo brano. Sì, perché... sono mandato una lista l'altro giorno. Appunto. Io ho seguito esattamente, non te lo ricordo. No, assolutamente. Ma... non mi ricordo qual è il primo, mi ricordo quali sono i brani. Vabbè, ma che vergogna. Infatti. Che silenzio che abbiamo lasciato, questa pausa di riflessione così inutile. Va bene, comunque c'è stato un dibattito qui, ovviamente, perché giustamente Keila dice che è David Guetta, io ho detto è David Guetta, e invece la redazione ci dicono che è francese, e quindi com'era? David Guetta. Guetta, ok. Non lo so. Non lo sappiamo. Com'è? Ma chi se ne frega? Ci frega? No, assolutamente. Questa è un po' no. La cosa più importante. Beh, certo, che se è francese un po', diciamo che... E vabbè, starà a rosicà pure lui. Perché non c'ha il bidet, soprattutto. Questo è un altro discorso che non c'entra niente. Quindi, perché hai scelto questo brano? Raccontacelo. Allora, no, il brano. Cioè, no, il brano. Allora... una delle mie fonti di ispirazioni più grosse quando scrivo è la musica. Ok. I testi musicali. Cioè ti aiutano a scrivere o ti danno proprio l'ispirazione? Mi danno l'ispirazione. Interessante. In realtà in questo caso è successo il contrario, nel senso che quando ho ascoltato questa canzone la prima volta ho detto: oh, vedi, questo è come personaggio di uno dei miei libri, vedi? Ma secondo me ti ha copiato, può darsi, lui ha letto. Non lo so. Non era pubblicato ancora il libro, sai, le vie del Signore. E quindi sì, spesso scrivo delle cose, ma non storie intere, magari una scena, magari una frase, qualche cosa, una frase di una canzone che mi ispira tutta una scena di una storia. Che poi posso dire, tante volte secondo me i sceneggiatori americani fanno così, che sono sempre pieni di citazioni, di canzoni, di cose. Ma no, non è tanto una questione di citazione, è per no, che però, immagini, che ne so, da una frase di una canzone, immagini una scena, situazione, delle emozioni che vuoi riportare sulla carta scritta. Certo. Poi vabbè, non è carta, ma insomma. Non sempre, gatto. Vabbè, dai, ci piace ancora dire usare termini assolutamente inappropriati. Esatto. Eppure c'è gente tipo il nostro Pietro, luddista digitale, che scrive esclusivamente su carta. Io penso che non prendo la penna in mano da... Non so, cioè, quando vado in banca e mi dicono che devo firmare i documenti, per me è una tragedia. Cioè. Beh, ma sono digitali adesso, però le firme. Adesso è vero, è vero, è vero, è vero. Infatti, sono digitali. Infatti, recentemente mi è capitato, mi ha messo davanti il tablet col pennino. Sono rimasto destabilizzato da sta cosa. Insomma, troppa tecnologia. Comunque, veniamo a noi. Quindi, come è nata la cosa? Che dici, non è come dici tu, allora diccelo tu. Insomma, allora dillo tu, o sei tu allora. Beh, io lo so, spero, lo so. Non lo so, lo sai? Sì. Credo di sì. E allora, io già a 12, 13, 14 anni, insomma, scrivevo, forse l'abbiamo fatto tutti, non lo so. Sì. Vabbè, tutti. Quelli che c'avevano l'ispirazione, anch'io alle medie comunque c'avevo il mio quadernino, le cose, insomma. Sì, scrivevo storie, ho scritto pure un romanzo d'amore, non so, vabbè, una cosa. Ancora ce l'ho lì, No, no, adesso lo vogliamo leggere. Sì, ti attacchi. No, dai. Non l'ho letto più neanch'io. No, perché no, te ne vergogni. No, non è che me ne vergogno, io... Buttalo su Gemini, vedi che esce fuori. Sì, è scritto a penna con la mia scrittura dell'epoca. Gemini, che non lo può già erano zampe di gallina, adesso non so. No, guarda. E poi però ho abbandonato completamente questa cosa, dopo le superiori, dopo il secondo superiore, dove avevo tra l'altro un'insegnante di italiano fantastica, che ci ha fatto scrivere diversi racconti, che ho perso, purtroppo, quelli li ho persi. Tanta roba ho persa pure io, sì. E poi con l'università ho completamente abbandonato, perché ho studiato economia e commercio, quindi ci trovo proprio niente. Vabbè, però non è che la cosa esclude categoricamente. No, ma c'avevo la testa altrove, cioè completamente messo da parte. Sull'economia e commercio. Sì, esatto. Dove ce l'hai la testa? Sull'economia e sul commercio, tutte e due insieme. Poi ho cominciato, quando è uscito Facebook più o meno, mi sono iscritta con un nome finto su Facebook. Tipo non me lo ricordo, ma era un account da uomo. E devo dire, aperta e chiusa parentesi, che ho avuto più stalker donne quando c'avevo quell'account e fingevo di essere un uomo che stalker maschi adesso che sono io. Addirittura. Terribile, le donne sono terribili sui a me social network. Su Netlog mi succedeva sta cosa. A volte pure imbarazzanti. Sì, beh, insomma. Per me c'era una donna ancora di più. Cosa fa una digressione? A me una volta mi rompeva le balle una tipa che praticamente era una satanista. Ah. E c'aveva due figlie grandi, celle, 13-15 anni, insomma. E loro andavano in giro, gli disegnava la croce rovesciata sulla fronte. Gente un po' fuori di testa. E mi mandava queste poesie erotiche. Ho provato del disagio, veramente del disagio. Prego, prego, scusa. Continuiamo. E con questo account ho cominciato a frequentare gente di tutto il mondo. Vabbè, ovviamente a frequentare, tra virgolette. Vabbè, comunque a interagire. Sì, a interagire con persone, soprattutto americani, ma non solo. Fan di Star Trek, perché Star Trek per me è al massimo della fantascienza televisiva. E quindi abbiamo cominciato a scrivere delle fanfiction su Star Trek in gruppi dedicati, ovviamente. Figo! Sì, in inglese. Cioè, è tutto esclusivamente. Abbiamo capito inglese. Che scrivevi in inglese. Cioè, beh, con gli americani sono così. Appunto. Oddio, magari qualche messicano, che ne sai. E da lì poi mi sono creata un account, appunto, che è la Damaer. Ok. Per togliermi di torno sto maschio, certo, pesante, sta mascolinità. Vabbè, sì, che non era, vabbè, non era il caso. Vabbè, comunque. E ho continuato, però, insomma, sei rientrata negli stessi gruppi e hai detto: so io. No, non ho detto so io. Ecco. No, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. No, perché sennò penso che le bestemmie. E quindi ho cominciato da me stessa, cioè come me stessa, con questo nickname a scrivere fanfiction. Sempre di Star Trek, però inventando anche personaggi che non esistevano, cioè inventando personaggi e mettendoli in mezzo a quelli famosi. Certo, vabbè, d'altronde molte fanfiction. E un giorno ho scritto di questo personaggio, questa Eleanor, un argomento, come si dice in italiano, non lo so. Vabbè. aumentata sì, i potenziati, ok, E un mio amico l'ha letto, un mio amico italiano l'ha letto e che ha detto è inglese, ci ho capito un cazzo. No, perché all'epoca viveva negli Stati Uniti, quindi ok. E mi ha detto no, tu devi pubblicare un libro. Io sì, vabbè, pubblico un libro. È arrivato, dice. Cioè no, tanto basta che modifichi, cioè togli tutti i riferimenti a Star Trek, alla serie, no? Certo. Quindi le specie, i pianeti, sì, tanto le cose, di fantascienza ispirata ce n'è tanta. Esatto, e ci scrivi la tua saga. E quindi ho cominciato a scriverci la mia saga. E lì mi sono intrippata. Sei entrata nel turbine proprio. Sono entrata nel turbine. E non c'era l'intelligenza artificiale poi. No, non c'era l'intelligenza artificiale, parliamo del 2016. E se stava meglio secondo me da quel punto di vista un pochino. Vabbè, dai, poi ne parliamo. Sì. E quindi ho cominciato a scrivere questo romanzo, ho fatto una gran cazzata perché faceva schifo. No, non è che faceva schifo, però iniziare a scrivere un romanzo su un mondo complesso che te dà, cioè l'idea che ti voglio dare non solo Star Trek ma anche, cioè, a livello di complessità, non di qualità della scrittura o del contenuto, tolkieniana, perché c'è sta veramente un mondo. Ho creato mappe, ho creato calendari, cioè, vabbè, era il bello di fare quel tipo di fiction, lo so, però era complicato, magari mancava l'esperienza, dici. Mancava l'esperienza per poter scrivere una saga intera su tutta sta roba. Infatti alla fine ho pubblicato due romanzi e due antologie di storie brevi e mi sono fermata lì perché questa è la famosa saga che devi killare, che mi avevi detto. Sì, che Killing My Darlings, sì. Beh, non devo, speriamo che riuscirò a riprenderla. Infatti, perché io ce l'ho tutta nella mia mente. Bravo. Io so come va a finire. Cioè devo portarceli i personaggi ad arrivare. E se poi te lo scordi? No, non me lo scordo. C'ho appunti da qui all'eternità. Allora va bene. C'ho scene scritte, intere scene. No, però alla fine, cioè, dovrei prendere un mutuo per poter sostenere i costi di una cosa del genere. E non è possibile, anche perché ci vuole veramente tanto tempo. Io sono lenta. Sono lenta a scrivere, ero lenta, diciamo. Vabbè. Saresti ancora lenta, se... Sì, perché nonostante l'intelligenza artificiale, per scrivere quella roba lì ci vuole veramente tanto, tanto, tanto, perché poi devi controllare che il personaggio X, che tra i miliardi che c'hai, non abbia gli occhi azzurri a pagina 20 14. Del terzo libro e a pagina 200 del quinto diventati blu. Ci sono tanti metodi per fare preproduzione all'interno del... Sì, ma io mi perdo, quindi insomma non è l'ideale una cosa del genere. No, vabbè, però è la parte difficile di scrivere un romanzo, a prescindere poi di quel tipo di quella tipologia, dove comunque devi strutturare veramente un universo, è ancora più complicato, tu dici. Sì, decisamente. Quindi l'anno scorso, in autunno, ho deciso di iniziare una nuova serie. Che non c'entra niente. Che non c'entra niente, no, non c'entra assolutamente niente, è sempre fantascienza. Però intanto le storie sono più brevi, perché appunto sono, come hai detto, che si dice in italiano, romanzi brevi. Romanzi brevi, ok. O novelle se sono racconti lunghi, perché c'è una differenza tra racconto lungo e romanzo breve. Ok, in inglese sono novelette. Okay. Le omelette. Sì, oppure short stories, sì, storie sì, brevi. Sì, sì. E questa, la prima storia, che è appunto questa base 9001. Quello che c'hai. Sì, che presto ascolterete. Un giorno ascolterete. Non tra tanto, ma insomma. L'ascolterete prima o poi. E è una storia che ho scritto. Anche perché c'è arrivato un romanzo di 50 capitoli. Sì. Cioè, io non so se tu l'hai visto. È una cosa. Io l'ho approcciato, non mi sono reso conto. Ho iniziato a lavorare i primi capitoli, poi vedevo che non, cioè, scendevo, e sono arrivato al capitolo 50. Ho detto, ma quando finiamo a fare questa cosa? Cioè? Vabbè, finirai prima o poi. Non lo so, ho consumato l'Amazzonia poi nel frattempo. Addirittura. Vai. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Non lo so, stavi dicendo un racconto breve. Ah, della nuova serie, sì, no? Sì, questa nuova serie, la storia in realtà l'ho scritta diversi anni fa. Ok. E nel 2023, se non sbaglio, sempre in inglese, l'ho venduta ad un editore, insomma, stavo di publisher. Vabbè, si dice publisher anche da noi. E vabbè, però parliamo in italiano. Un editore americano. Americano? Sì, con un determinato finale che era abbastanza chiuso. Cioè chiudeva la storia? Sì. Ok. La storia tuttora si chiude, perché tutte le storie di questa serie hanno un inizio e hanno una fine. Sono antologiche? Sì. Si dice antologiche? Sì. Non saprei. Sono storie stand alone. Si dice, si dice okay, antologiche. E quindi possono essere lette anche, cioè uno si può leggere anche il libro 5 senza aver letto gli altri. Diciamo che comunque c'è una storia che va avanti tra i vari personaggi che si ripetono, insomma, che quindi anche ritornano. Non c'è proprio una timeline fondamentale, insomma, c'è, ma comunque c'è, ma è relativo, sì, è relativo, un po' come serie TV di una volta, sì, che cioè, no, c'era la puntata, cazzo mi pareva le serie TV in Italia, poi hanno fatto disastri. No, vabbè. E non parliamo dei cartoni animati, mi potrebbe dire qui dalla regia. Non ascolta. Ma c'è qualcuno in chat che dice qualcosa? Non so, io non so. No, non stava leggendo neanche la chat. Io, ma io non ci sono, io sono la clack, io sono il clapper. Che fai da non me? Lo so, non funziona, però. Ah, ecco. Vabbè, no, dicevo, io sono la clapper qua. Ah, sto batte le mani, perché mi dovete entrare in ballo? Ah, hai ragione. Comunque, no, c'è gente in chat, salutali. Salutali, ciao. Io non ci sono, ciao. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo in chat. Sappiate che non vi leggo perché devo. O guardo. Oh, ma scusate. Io sto senza occhiali, quindi non vi leggo. Guardo, non so che cazzo è successo. Ah, ok, scusate, ho fatto un macello. Spingo pulsanti a caso. No, o leggo, o guardo in faccia Keila, oppure guarda, leggo la chat. Quindi preferisco guardare a lei, perché sennò poi parliamo col monitor in mezzo. Insomma, non è simpatico. Comunque, ritorniamo. Serie sì. antologica. Quindi sì. Questa nuova serie si chiama Base 9001? No, quello è il racconto. No, quello è il racconto. La serie si chiama Il codice del vigilante. Il codice del vigilante. Questa cosa mi ricorda un po' 7 di 9, non so perché. Perché 7 di 9? Beh, perché 7 di 9 è la serie di Picard. Lei fa la. La guardia di qualche cosa. Sì, possiamo dire che è un po' ispirata. No, una gran sorcona, bisogna dire. Scusate, non volevo, però insomma. Non si dicono queste cose in una diretta radiofonica, hai ragione. Ah, pure la protagonista dei miei libri è gnocca. È una sorcona, sì. Dai. Però non è bionda. Vabbè. A me non piacciono le bionde. Ma noi non ci abbiamo pregiudizi. C'ha pregiudizi in redazione? No. Mi sento di dire no. Ok, non so perché, ma chiudo quando devo aprire e apro quando devo chiudere. Vabbè, dicono di no. Vabbè, comunque, dai, poi dopo se. Ok. Quindi l'ho venduta a questo signore qua. Tutta la serie? No, soltanto il primo racconto. Tutta la serie non l'avevo ancora noi. Scritto. Okay. Sì, ma con un'altra fine, perché praticamente questi hanno acquistato i diritti. Quindi per un anno. Quindi noi abbiamo il finale più aggiornato? Sì. Ah, bello, bello. Ma una storia l'ho cambiata. Cioè, loro hanno acquistato i diritti per un anno. Io però la volevo riscrivere in un altro modo, eliminando una serie di rotture di scatole. Tanto per anno, poi quello che cazzo ti va, giustamente. Sì, ma ho ripubblicata prima. Diversa. L'hai ripubblicata prima dell'anno? Sì. Questa è una violazione al contratto. No, non è una violazione del contratto, perché l'ho riscritta. Che vuol dire? L'ho cambiato. Ah, quindi ho cambiato pure il nome fine. È cambiato, cioè un'altra cosa proprio. Il titolo pure sì, perché mi pare che era Outpost 9000, sì, no, 9000. Ah, va a posto, okay. Quindi. Invece questa è base. No, in Italia. In inglese è una cosa, in italiano è un'altra. In italiano io non. Fino a che non. Non l'ho cambiata completamente, non l'ho tradotta. È stato il primo racconto che ho tradotto quello in italiano. Ok. Con la nuova versione e il nuovo finale. Che è aperto. Nel senso che finisce la storia, però. Dà il gancio. Sì, diciamo che uno può continuare a scrivere all'infinito. Certo. Vabbè, che poi essendo una storia più breve rispetto agli altri romanzi. In realtà quasi è una sorta di porta d'ingresso nell'universo. Sì, no? Sì. Esatto, infatti in inglese la regalo gratis a chi si scrive sulla newsletter. In italiano va a comprate. A stronzi. Ecco, a 99 centesimi, capirai. No, io l'ho comprati alcune cose e devo dire che allora, mi piace il modello. Poi ne parliamo anche di questo In che senso? Non mi piace il modello del modo in cui tu hai approcciato sta cosa del sito, del fatto che hai fatto uno shop, che hai messo dei prezzi. Insomma, è interessante perché poi alla fine puoi decidere di passare o per un certo tipo di percorso convenzionale spendendo tanti soldi, oppure ti costruisci le cose, te le impagini, te le produci e poi te le vendi a fare i voi, insomma, da cioè. Indipendente faccio tutto da sola. Esatto. E adesso con l'intelligenza artificiale pure le copertine, le correzioni delle bozze faccio tutto io. Sì. Anche se in inglese c'ho comunque un paio di persone che mi leggono le storie ti danno dei, e mi danno dei suggerimenti, okay, sullo sviluppo, non sulla grammatica o il lessico, insomma, diciamo proprio sulla storia, se c'è qualcosa che non quadra, okay, mi danno dei suggerimenti. E quindi prima di fare la traduzione in italiano io completi la storia standard, sì, certo, completa. Vabbè, no, certo, questo è abbastanza ovvio. Quindi tu hai costruito questa storia simile Star Trek che però l'hai per ora abbandonata, stoppata, diciamo, con così, mio eterno dolore. Dolore. Perché non funzionava? Perché? Cioè, qual è il motivo? Il motivo è che scrivere un romanzo richiede tempo, ripeto, io sono estremamente lenta. Sì. Il secondo romanzo ho iniziato a scriverlo nel 2018, l'ho pubblicato nel 2023. Cioè, non si può fare. Beh, e ci ho speso più di 2000 euro. Cioè, Martin fa peggio. Vabbè, Martin c'ha i soldi, io no. Ci ho speso più di 2000 euro per produrlo. E non si può, non è sostenibile. Certo. Non è sostenibile. Cioè, è sostenibile una volta, e neanche tanto, fallo basta ogni volta. Quindi finché non sarò in grado di eliminare il correttore di bozze americano, anzi inglese, che mi costa l'ira di Dio, la serie resta lì. E quindi faccio esperienza su cose più brevi finché non... Che poi è la cosa giù, perché ti dico, anch'io ho iniziato con una cosa che poi è andata morendo proprio perché ne perdevo il controllo, cioè nel senso mi rendevo conto che era una cosa più grossa. Tra l'altro... molto prima che uscisse Star Trek Enterprise parlava del primo viaggio a curvatura dell'umanità. Ovviamente non era curvatura, era tutta una serie. Certo. E quando è uscito Star Trek Enterprise ho buttato tutto, ho detto vaffanculo. Quindi vedi che insomma alla fine... però era complesso, c'era tutto uno schema, erano anche lì erano quasi una trentina di capitoli, c'era cioè una roba grotta, troppo per uno che non c'ha esperienza, come dici tu poi alla fine. Quindi alla fine magari iniziare o ricominciare facendo determinate cose, anche facendo proprio esercizio mentale, no, nel modo in cui si struttura la storia, diventa proprio anche la ginnastica del cervello, no? Esatto, ma anche i collegamenti tra una storia e l'altra, perché pure che sono antologiche, mi hai detto questi, sì, sì. Comunque i collegamenti ci sono, perché certo, ci sono personaggi ricorrenti, quindi ti devi ricordare che nel libro 2 si sono detti sta cosa e gliela ricordi magari anche al lettore, se è una cosa importante. O comunque chi non ha letto l'altro libro deve sapere che è successa questa cosa prima tra questi due personaggi. Ok, allora guarda, mettiamo il secondo brano, mm-hmm, poi torniamo e parliamo proprio del sito. Okay. Ci parli un po' del sito e poi dopo andiamo anche all'argomento, insomma, quello... Clou. Sì, clou. No, in realtà clou è tutto, però poi è comunque un tema da affrontare in qualche maniera. Va bene, rientriamo allora con questa... la miseria, mi devo ricordare, anzi, dato che questo meraviglioso nuovo software è anche il Ducking, la prossima volta lo attiviamo, scusate, ma insomma, piano piano. Devo prendere dimestichezza con le cose che faccio, quindi... Comunque, faccio poi, è una parola grossa, comunque... E parliamo del sito, pubblicizzalo, di cosa ci si trova, come si acquistano le cose. Poi c'è anche qualche esperimento di audiobook. Sì, allora il sito inizialmente ovviamente è nato in inglese, quindi fino all'anno scorso c'era soltanto la versione inglese. Poi cosa è cambiato? ho iniziato a tradurre i libri in italiano e quindi fatto anche delle pagine italiane da mettere sull'ebook, cioè, perché qualcuno magari lo compra, ci casca e clicca sul link e va a vedere che quindi altro c'è. Magari ci casca. Magari ci casca, sì. Beh, l'idea è sempre quella, anche in inglese. Intanto di sempre l'indirizzo, dillo ripetutamente. Kayladamaer.com. Ok. Come nasce sto nome? Kayla l'ho inventato io. Ok. Da Kayla, che non mi piaceva in inglese, che si pronuncia Kayla, tra l'altro. E si Kayla. Kayla scritto e si pronuncia Kayla. Okay. E io lo volevo cambiare perché mi piace cambiare i nomi. Mi prendo nomi che esistono e li storpio. Tipo John lo chiami Jen. Anche. Ma che, sì. Ma sì, dai, non fa una fantascienza, si può fare qualsiasi esatto, cosa. Cioè, esatto. E Damaer era il cognome di uno dei personaggi inventati della fiction di Star Trek, quindi l'ho tenuto come cognome. Non è il massimo, però questo c'avevo, ormai mi conoscevano tutti così. Tu lo sai che c'era un forum enorme in Italia, che non solo facevano fan fiction di Star Trek, ma c'era un enorme gioco di ruolo dove tu entravi ed eri un cadetto della flotta stellare. Ed era difficilissimo perché facevano i test per entrare all'accademia, ma wow. Era una roba fuori di testa. Cioè, io ci ho provato un paio di volte, vabbè, comunque, prego. Sito. E niente, quindi è nato in inglese, poi a un certo punto mi sono resa conto che potevo anche aprire il negozio. Allora, siccome il sito è in WordPress, chiaramente l'ideale sarebbe utilizzare WooCommerce, però troppo complesso, almeno per me, cioè nel senso da gestire, da vedere, evita le truffe, le cose, troppo complesso. E quindi mi sono guardata intorno e ho trovato questa compagnia britannica. Non c'è niente da fare, gli inglesi agli americani su tante cose. Tant'è vero che anche il servizio di hosting che ho adesso da 2 anni e mezzo è britannico. C'hanno un servizio di assistenza clienti che è fenomenale. Lo vuoi citare se vuoi. E si chiama, basta ricordare, non mi ricordo, okay, Lyrical Host. Mai sentito? No, non è famoso, è un'azienda molto piccola, però sono fantastici, veramente qualsiasi cosa gli chiedo lo fanno, soprattutto vabbè, cose che ovviamente io non sono in grado di gestire. Ci sta, cioè non è che... Cioè, quando si comincia a parlare di DNS e quella roba lì, cron jobs, cioè, che è una roba porno? Che no, sì. Ti capisco perfettamente. Mi fanno tutto, oppure rispondono a domande anche laddove non sono tenuti, secondo me, perché mi hanno pure controllato il settaggio di Amazon AWS, non so come si dice, AWS, quello lì, che adesso sto utilizzando per la newsletter. Perché è molto più economico di quello che utilizzavo prima. E quindi ho trovato appunto questa azienda britannica per il negozio e ci ho creato il negozio, che è collegato al sito. Sembra che non ti sposti quando ti muovi da una parte all'altra, in realtà non sta sul mio hosting, ovviamente, il negozio. E loro gestiscono tutta la parte anche dei pagamenti, collegato con PayPal. Però io non c'ho problemi, cioè qualcuno potrebbe fare delle contestazioni con PayPal per, che ne so, qualcosa che ha comprato, però insomma fino adesso non mi è successo. Vabbè, ma cioè, voglio dire, se uno compra un libro a 2,99 euro, no? E fa pure la contestazione, sei un pezzente. Cioè. Ma ci stanno i pezzenti, ci stanno. Cioè, perché poi il libro te lo sei scaricato comunque. Capito? No, ma infatti non è prevista la restituzione, io ce l'ho scritto refund, ho la refund policy, sì. A differenza di bisogna di quello... vedere che ne dice PayPal, perché poi il problema sì, è sempre chiaro, loro. Se cioè... fanno la contestazione su PayPal, sì, però il discorso è che rispetto agli altri negozi, cioè Amazon, Kobo, Google, Barnes & Nobles, che vabbè in Italia non c'è, ma sono americani, e quant'altro. Sono americani e in inglese, ricordiamo. No, Barnes & Nobles è americano. E ti stavo a prendere in giro. Ah, ok, va bene. Non ho colto. E con loro tu ti scarichi la copia del tuo EPUB, ma non è tua. Se il publisher, l'editore lo toglie quell'edizione dal mercato, tu non ce l'hai più sul tuo lettore. Quindi non l'hai comprato, hai comprato il diritto a leggerlo, ma se lo levano tu non ce l'hai più. E mi è anche capitato, sì, è anche capitato, sì, con la guida intergalattica degli autostoppisti. Questo, sì, è un problema grave che attanaglia tutto il mondo della distribuzione di contenuti digitali. Nel mondo dei videogiochi c'è una polemica in questo immagino, momento. Anche per i libri c'è la polemica. Esatto, mentre invece chi compra sul negozio si compra proprio la copia, che se la scarica è sua e ci fa quello che gli pare. Certo. Spero che non le piratino, ma sicuramente sì, quindi non lo so. Vabbè, ormai... anche lì. Sì, vabbè, infatti, non... cioè, pazienza. Cioè, la cosa che mi fai le fotocopie del primo libro del Trono delle Spade, una cosa è, cioè, nel senso, boh, veramente, io non riesco a... cioè, però può essere pure che succeda, per carità. Non so, c'è gente che non è famosa esattamente quanto non lo sono io, che si preoccupa di queste cose, oppure di mandare la copia del libro a una persona più o meno sconosciuta per fargliela leggere e farsi fare una critica, no? Gratis, piuttosto che pagare un correttore di bozze, e dice: ah, ma se poi mi rubano il libro, ma sei pizza e fighi? Siamo pizza e fighi, ma chi se ne frega del libro tuo? Del libro mio anche. Cioè. Quindi io ste paure non ce l'ho mai avute. All'inizio facevo pure la registrazione del copyright sul sito americano del copyright, ma non, cioè, ho rinunciato anche a quello perché tanto non serve a niente. Beh, io facevo i depositi alla SIAE, che non è quello proprio, no, non è la registrazione del copyright, però è comunque una forma di tutela che costava comunque, allora vaffanculo. Sì, infatti la SIAE per me può andare, no, per carità, in deposito. No, per carità, guarda, non lo dite a Runtime Radio che... Una volta uno speaker che non citiamo, che è qua vicino, mi disse: ma che passi la musica? Vabbè. E poi si è abituato. Gliel'ho chiesto anche io a Shuren, però sta cosa, ma sì, per sì, curiosità, non no, per altro, no, ma cioè, è giusto, noi paghiamo la licenza di server. Sì, e vabbè, comunque ricordiamo il sito, che è iradamaier.com, dove sia in inglese che parte anche in italiano ci sono i libri che possono essere acquistati o scaricati gratuitamente, perché alcune cose sono gratis. Sì, alcune cose sono gratis, e gli audiolibri io l'ho fatti soltanto in inglese perché ho utilizzato l'intelligenza artificiale. Vabbè, per forza, cioè, adesso diciamoci la verità su questo. In italiano sinceramente all'epoca lasciava un po' il tempo che trovava quando ho fatto queste produzioni, cioè all'inizio dell'anno. No, ma neanche quello di Google c'era ancora. No, quello ha un po' cambiato le regole, diciamo, a un certo punto. Sì, ma fa schifo. In italiano fa schifo. Sì. Infatti io non li distribuisco. Io per ora Sono abbastanza soddisfatto di quello che esce fuori. Sì, ma tu non utilizzi quello che uso io. No. Cioè io vado su Google Play. No. Google Books. No. Ok. No. Certo. Perché certo, per utilizzare quello tu devi per forza pubblicare l'ebook con loro. Quindi c'hai l'ebook e puoi creare l'audiolibro. E te lo puoi scaricare e venderlo anche in altri posti dove l'accettano, è ovvio, perché non tutti i siti, non tutti i negozi ti accettano audiolibri realizzati con l'intelligenza artificiale di altri, perché Amazon pure adesso c'ha la sua, anche in italiano, ma pure lì, sì, mi pare che l'ho fatti, ma sinceramente lascia il tempo che trova, vabbè, non mi costa niente, non mi costa tempo, perché fa tutto in automatico, e se qualcuno... Ma tu lo sai, vuole ascoltare, tu sai ascolta. Su Scribber, si chiama Scribber, il programma quello là con cui si impaginano gli ebook, no? Come si chiama? Scrivener, scusa, okay. Ma c'è, cioè, il lettore interno, forse tu non te ne sei mai, ecco. Sì. No, ma sì, che vabbè, io lo uso. Io no. Io lo uso anche per un'esigenza mia, nel senso che comunque io a leggere dopo un po', no, comincio a faticare, certo, e quindi... Però mi fa troppo ridere, cioè, perché veramente è Marta l'ubriacona, cioè. Poi a un certo punto prende, comincia a piottare, vabbè, comunque dai, non c'entra niente. E quindi keiladamaier.com/it, se volete, ovviamente ci sentiamo un altro brano e poi parliamo in collaborazione con, come hai detto tu prima, che insomma è un termine abbastanza interessante, sulla quale io non voglio sentire la tua opinione, io mi sono espresso tante volte, quello che sto usando non sarebbe mai esistito se non ci fosse ovviamente questo discorso dei modelli LLM. È vero pure che io comincio a dall'entusiasmo iniziale comincio a dire ok, però diamo poi a Cesare quel che è di Cesare, ma questo è un discorso tutto mio che non c'entra niente. Tu dici ma Cesare che Cesare c'entra sempre. Esatto. Vabbè, che poi io ho scritto il brano nella chat praticamente quando il brano è finito, però insomma che ci frega, che ci importa se lo Starvino ci ha messo l'acqua. Veniamo appunto a questa cosa dell'intelligenza artificiale, perché devo dire la verità, allora, se escludiamo parzialmente diciamo tutta la parte controversa, che è quello che nella mia testa io ho fatto per qualche mese, no? Cioè nel senso, ho messo da parte tutti gli aspetti che in realtà mi avrebbero fatto far riflettere, io l'ho accantonato, diciamo, per un periodo di tempo. E mi veniva sempre in mente un episodio di Star Trek, The Next Generation, dove c'era questa nuova membra dell'equipaggio, che penso, non so se sia durata, che poi è quella che versa il cioccolato bollente addosso a Jean-Luc Picard, che lei parlava col computer e diceva grazie, per favore, e tutti dicevano ma perché tu dici grazie per favore a un circuito intelligente, cioè nel senso è comunque una macchina, no? E lei rispondeva, dice sì, ma il fatto che sia una macchina non vuol dire che io devo essere scortese, no? Allora il problema è che questa cosa l'ho trovata un po' enfatizzante da un certo punto di vista, perché era, però ho sempre riflettuto al fatto che nella mia vita, per la mia condizione, per i miei problemi oggettivi in generale, ho sempre pensato che un'interfaccia vocale intelligente, tra virgolette, che aiutasse le persone a svolgere determinate funzioni laddove ci possono essere delle difficoltà o che possono assisterti anche se non ne hai delle difficoltà, secondo me è sempre stata una cosa più che auspicabile, no? Quando sono arrivati ovviamente i modelli LLM che hanno cominciato a diventare sempre più evoluti, poi negli ultimi sei mesi è stato i fuochi d'artificio, boom, bam, boom, bam, boom, bam. Poi sono tutte cose che loro già ce l'hanno pronte, però come esce quello nuovo, ah, già ho pure io, capito? E devo dire che in effetti tante cose sono migliorate da questo punto di vista, no? E se io ho una storia, tu lo sai, anch'io ci sto sì, lo so. Sto scribacchiando cose, in realtà il primo lavoro che ho fatto è recuperare cose del 1993 che oggi ho riaggiornato per renderle anche un po' più masticabili da un certo punto di vista, e ho usato l'intelligenza artificiale solo esclusivamente come revisione testuale, no? E devo dire che io quel lavoro non l'avrei mai potuto fare, perché non riesco a stare così concentrato su un testo tanto a lungo da poter diciamo fare quel tipo di lavoro lì, se non come magari è capitato a te, andare da un professionista e mi è capitato poi di chiedere, cioè nel senso, poi ovviamente ti sparano delle cifre che sono oggettivamente anche giuste, sì, cioè nel certo, senso, è il lavoro. Cioè per loro è un lavoro anche impegnativo, perché comunque come tu no, vai a leggere 100, 200, 300 pagine della raccolta dei racconti e devi essere minuzioso e iperprofessionale, cioè non te ne può sfuggire la virgola, questo la voglio dire, no? La virgola sfugge, più che altro no, non puoi dire sto racconto mi fa schifo quindi non lo leggo, perché c'è anche quello. Ah, no? No, vabbè, sì, sì, no, vabbè, quello, quello non l'ho neanche considerato. Certo. Vabbè, però c'è. Ti ho dato 1.000 euro, dove devi leggere, te devi stare pure zitta. Cioè, ok, nel senso, però poi, è un lavoro, appunto. È un lavoro, cioè, è un lavoro, che... esatto, è un lavoro, soprattutto la revisione, la formattazione anche dal punto di vista tipografico, poi le regole italiane sono diverse dalle regole internazionali, ma ci sta, a me per esempio piacciono più i caporali come virgolette che si usano in Italia che le lineette magari che si usano nel mondo anglosassone, mongo però insomma questa, ecco quello, sempre un po' il tuo approccio quando tu hai iniziato ad utilizzare determinati strumenti, come hai appreso, hai imparato ad utilizzarli e in che maniera, qual è la funzione che tu assegni a questi modelli? Tanto allora, diciamo tu ne hai usati diversi, no? Io ne ho usati e tuttora ne uso diversi, okay, perché però poi sei approdata un po' in Gemini. Sì, Gemini è quello da cui, a cui torno sempre, sì. Però comunque hai, spazio. Hai studio? Sì. Hai studio? Mette a disposizione, no, mette a disposizione gratis praticamente. Sì, sì, sì, gratis, tanti milioni tanti e milioni di token. So, esatto. È vero. E, però esce qualcosa di nuovo, io lo provo. Certo, sì, sì. No, ma anch'io, anche solo per curiosità. Per curiosità e poi per diletto, posso... per gioco, per, sì. Per prova, perché... Sì. Anche per vedere come posso applicarlo. Li vedo, cioè, innanzitutto come dei giocattoli, dei giocattoli che possono essere utilizzati in maniera professionale e quindi con cui anche divertirsi. Infatti ci cioè, creo canzoni, come tu ben sai, personaggi, cose, il libro su Trump... Quello completamente creato utilizzando l'intelligenza però artificiale. Precisiamola sta cosa perché può essere fuorviante, eh? Cioè a meno che poi in realtà è come dici, cioè nel senso è proprio letteralmente come l'hai detto, no? Però perché molti dicono vabbè allora, cioè perché sai che mo adesso va tantissimo di moda tutti sti video dove ti dicono fai 15 libri al mese, buttali su Amazon, sì, e guadagni i soldi a sbafo, sì, no? Perché poi, non è così. Appunto, non è così perché poi comunque l'intelligenza artificiale va per la sua strada. È una merda quel sistema, insomma, è una merda i canali che lo propongono perché poi insomma alla fine... Allora io conosco professionisti che già scrivevano prima tanti libri al mese, soprattutto nel genere storie d'amore, sì, romanzo, non vabbè, so, vabbè. Perché i lettori di quel genere lì vogliono leggere un libro sì, al giorno. Sì, cioè, sì. Io c'avevo un mio amico che scriveva gli Harmony sotto uno pseudonimo e ne scriveva due o tre ogni con ogni l'intelligenza sei mesi, artificiale, cioè. Nel momento in cui tu già sai come scrivere, ci vuole un attimo. Cioè, è un atomo. È chiaro che se non hai mai scritto e non ti aiuta niente, non puoi pubblicare pure 100 libri, non te li compra nessuno perché fanno schifo. Ma quello che esce fuori è un po' una standardizzazione da sto punto di vista. Io ho letto qualcosa per curiosità, e devo dire che come dici te poi noi ci siamo trovati tantissime volte a ragionare sul fatto che ci sono ovviamente delle standardizzazioni, degli stereotipi narrativi e dei nomi che sono iper ricorrenti negli LLM. No, perché quello utilizza le statistiche e statisticamente se quello è il nome sì, più però, utilizzato. Sì, però io tutti sti Torm nelle storie di fantascienza no. Però, ma forse stanno nelle storie d'amore che sono quelle più lette e più scritte. Peggio, dici, capito? Su questo hai ragione. Io settorizzavo, invece no, in realtà no, è tutto nel calderone. Tutto nel calderone. Vabbè, torniamo a te comunque. Come... Allora, chiaramente come il primo che ho utilizzato è stato GPT, perché quello è il primo che è uscito. Vabbè, sì, in poi Italia. Dopo pare che se sistema. GPT era come l'iPhone o come il Walkman, no? Cioè, GPT era l'intelligenza artificiale. Sì, beh, all'inizio c'era solo quello. Però vabbè. Vabbè, io ho scoperto quello che okay. Ti devo sì, dire. Sì, no, no, ma perché è ancora così? Era già usa ChatGPT. No, io non lo dico mai perché non mi piace. Esatto. Aperto e chiuso parentesi. Adesso è secondo me uno dei peggiori. No, gli americani sono ancora convinti che è il primo sì, in assoluto. Sì, vabbè, perché fanno tanta propaganda, quello sì. Sì, vabbè. Pure Gemini americano, non è che. Fa meno propaganda di quel tipo. Ma secondo me non ce n'ha bisogno, GPT, perché comunque Google sta dappertutto, quindi... Sì, tra l'altro ieri è successa una cosa, secondo me, gravissima. Tra NASA e Google hanno postato una roba che, secondo me, inizia a diventare veramente pericolosa sta storia. Ma è sfuggita questa. Poi ne parliamo in separata sede. E ChatGPT l'ho utilizzato per fare un'ultima revisione del secondo romanzo della serie che per adesso ho abbandonato, dopo che era stato corretto dal correttore di bozze. Ah, gli sei riandata No, non è che io sono riandata. Lei mi ha dato dei suggerimenti, che ne so, questa cosa così non funziona. Alcune volte mi dava dei suggerimenti su come cambiarla, altre volte o non mi piaceva il suo suggerimento, però capivo che c'era da cambiare qualcosa. Oppure non mi dava un suggerimento preciso e quindi, che ne so, sto dialogo non funziona per questo e quest'altro motivo, ok, lo devo cambiare per questo e quest'altro motivo, come lo cambio? E quindi ho cominciato a collaborare con l'intelligenza artificiale per fare questo tipo di cose, sì, che è, diciamo, l'uso, diciamo, più pre... la genesi del modo in cui si utilizza sta roba. Insomma, anch'io mi sono approcciato in questo modo qua più o meno. E dopodiché un po' l'ho abbandonato perché mi faceva abbastanza schifo quello che suggeriva, quindi non è che mi ha dato dei grandi risultati. E poi però sempre su Facebook, che è colpevole di tutti i mali di questo mondo, e ho cominciato, io sono anni che sto in contatto con tutta una serie di autori, quindi con tutta la comunità internazionale, soprattutto americana, ma non solo, di autori indipendenti come me, e ho visto che c'erano tanti che a livello professionale utilizzavano queste intelligenze artificiali, questi LLM, e quindi sono entrata in questi gruppi, ho cominciato a vedere quello che facevano gli altri. E da lì ho cominciato ad utilizzarli anch'io e mi sono resa conto che, abbandonando quella serie famosa che ho abbandonato, potevo scrivere mille cose più brevi e gestirmele da sola completamente, senza dover pagare il correttore di bozze, senza dover pagare il cover artist, e quindi pubblicare più frequentemente, non monnezza, perché insomma non è l'LM slop come lo chiamano gli americani, c'è anche quello, ma non mi sembra di capire che sia il caso mio, i riscontri, o almeno speri, insomma. Spero, però insomma qualche riscontro minimo no? Ce l'ho avuto, sia in inglese che in italiano, e quindi continuo su questa strada, per cui ho iniziato questa serie così, per gioco. Sì, no, però aspetta, specifico la domanda. Cioè, tu prima hai iniziato come sistema per correggere le bozze e poi è diventato proprio un assistente alla scrittura, uno strumento per aiutarmi a scrivere più velocemente. Però tu le cose le scrivevi, cioè non è che non, oppure le facevi scrivere... E davi la regia praticamente. La regia è sempre la mia, anche perché l'intelligenza artificiale non è intelligente, quindi se ne va per la strada sua, che non è sicuramente quella che voglio io. Sì, ho fatto un esperimento una volta che mi sono troppo divertito, però vabbè. E quindi sì, a volte scrive intere scene, ma io ci rimetto le mani completamente, anche perché tra aggettivi, avverbi, lo zono e torna. È un continuo di ripetersi, oppure gli mancava il respiro, cioè sempre questi modi di descrivere le reazioni dei personaggi, che so, palle. Sai, su questo io ho fatto fatica, perché andandomi a rileggere il mio libro dei racconti che avevo scritto, io mi rendo conto che anch'io scrivo in quella maniera lì. E ho capito, ma l'intelligenza artificiale ha imparato anche da te. È colpa mia, sono io lo stronzo. No, non è colpa tua. No, è scrivi così perché anche altri scrivono così, la maggior parte scrive così, e quindi quello copia. Questo rafforzativo di aggettivi su aggettivi, no? E purtroppo è un mio difetto che mi sono portato dietro da tanti anni. Che poi, non avendo più scritto, non ci avevo fatto caso, però quando tu mi hai fatto notare, guarda che questi passaggi scritti dall'LLM sono i soliti iper rafforzativi, inutili, no? E io ho detto, sì, però cioè, io non me ne rendo conto perché io scrivo così. Cioè, ripeto, l'essere umano scrive così nella maggior parte dei casi. E lui ovviamente prende su copia, base statistica, sì. Impara, tra virgolette, riporta statisticamente quello che viene scritto da altri, con lo stesso ordine, e quindi c'è l'aggettivo e poi l'aggettivo dell'aggettivo, e te ritrovi con queste frasi chilometriche che, per dire una stronzata, quindi, che poi sono ripetitivi, perché sono aggettivi che dicono la stessa cosa tante volte, oppure frasi ripetute in modo diverso che esprimono lo stesso concetto. Magari te le mette sfalsate, quindi tu non te ne accorgi lì per lì. Infatti, una cosa che mi aiuta tanto è quando faccio adesso che faccio le traduzioni in italiano, ovviamente sempre con l'intelligenza artificiale, lì butto proprio dentro il capitolo, dico traduci e va. E io ovviamente poi me lo rileggo. Vabbè, pure allora, il libro ci ha mandato Katia alla fine dal tedesco, è tradotto tutto. Però lei non parla italiano e quindi non lo può correggere. Io sì. Questo è... non so se ha utilizzato un correttore di bozze. Allora, non lo so. Questo non lo so. Però io me li leggo in italiano. Ha usato interamente DeepL, non ha usato né Google né... E devo dire che DeepL per un periodo di tempo è stato il migliore dal punto di vista letterario. perché faceva una traduzione della prosa molto aderente e ben strutturata. Però poi è ovvio che se non c'hai la controprova e tu se parli tedesco un po' parlicchi lo spagnolo, ma non parli, cioè lei dice io un po' l'italiano lo capisco, sì, ma non è la stessa cosa, no, no, nel senso, decisamente quindi no. Tu mi hai dato un libro tradotto in italiano che per ora io non ho incontrato cose che, però non c'ho neanche la controprova di quello che dice in tedesco, capito? Quindi, cioè, nel senso, un po' parte il libro, no, che non è il genere, diciamo, che leggerei io, però però insomma, insomma la traduzione mi aiuta a volte in italiano, perché è vero che io penso in inglese, rifletto in inglese, okay, parlo in inglese, però, scrivo in inglese, sogno in inglese, però poi leggerlo in italiano mi fa rendere conto magari di cose che dico, ma sta cosa non è che c'ha molto senso, però, oppure questo l'ho già detto prima perché lo sto ripetendo, e quindi correggo anche la bozza inglese. Però è vero pure, io ho notato che, diciamo, che un certo tipo di modo di parlare e ripetere le cose nella lingua anglosassone è diverso dalla lingua italiana. Cioè in italiano alcune cose ti sembreranno sempre un po' strane, no? Per esempio, ultimamente ho fatto un test con un nuovo modello vocale che dovrebbe essere un risponditore, no? Che anche nella versione italiana devo dire che c'ha questo modo di parlare molto naturale, i respiri, le cose. Però è proprio pensato con la logica di come si costruiscono le frasi americane. Lo so, è quello, capito? Il problema della traduzione utilizzando un LLM senza poi fare la correzione. È tutto corretto, è tutto credibile, però poi se tu ci pensi sembra un doppiatore che sta doppiando una serie televisiva americana. Cioè, quindi alla fine, cioè, è proprio di... Io il rapporto con le traduzioni per me è proprio complicato, cioè in generale, quindi immagino tu che comunque c'hai l'opportunità di avere una controprova su quello che fai, magari sei un po' avvantaggiata, però comunque secondo me degli squilibri fra due tipi di lingue sarà sempre. Ma sì, ma poi che c'entra, ci sono cose che non possono essere tradotte letteralmente, ci sono cose che... Allora, noi siamo molto più prolissi, per cui se rispetti quello che l'LLM ti traduce, ti viene una storia molto succinta. E quindi io lì aggiungo del mio. Infatti Gemini, poi soprattutto col 3... Dipende, perché anche lì dipende dal prompt, ricordati sempre, come dicono gli inglesi, che l'output dipende dall'input. Sì, io non trovo... Cioè, oggettivamente con i system prompt e tutto quanto sono abbastanza, però sì, si può sempre imparare, no? Però io trovo veramente una grossa differenza tra Gemini 2.5 e 3. 3 è migliore proprio anche come l'utilizzo, sì, di vocaboli migliore, e di struttura, sì. Però va proprio per le core, cioè va spiccioli, proprio va Ma sulla prosa, intendo. Sulla prosa, sì. Io sto trovando difficoltà su questa cosa. Io no, io invece, sì. Ho visto che riesce ad essere prolisso, forse perché nel prompt gli ho scritto scrivendo in italiano e quindi devi essere prolisso. Abbrutto. Senza esagerare con gli aggettivi e gli avverbi. Ah, una cosa importante ho scoperto anche, non capisce la negazione, quindi non fare questo è come se tu parli a un bambino di 2 anni. Lo fa, perché la negazione non la legge. Non mi chiedere perché non sono programmatore. Sì, allora questo e anche nelle immagini l'avevo notato molto di più prima. Oggi anche oggi, infatti, sto imparando a scrivere tutti quanti prompt in positivo. Fai questo, fai questo, fai questo. Perché sennò non ti ascolta. Non lo so, non è che ascolti, però. Sì, no, io per esempio ultimamente trovavo prima difficoltà dicendo analizzami questa parte di codice senza fare modifiche, e lui faceva le modifiche. Adesso oggi, fa? Oggi questa cosa non la fa più, perlomeno Gemini 3 da sto punto di vista, grazie a Dio. No. Sonnet sì. Non fare modifiche, non le fa. Le Sonnet modifiche. 4.5 le fa. Sonnet secondo me è proprio sbilanciato sulla prosa, secondo me, cioè, con Claude, secondo me, mi sono trovato proprio belli alcuni passaggi proprio che scrive, sì, in generale. Sì. Però, e qui secondo me Gemini ancora sta indietro. Secondo me Gemini è più strutturato, ha più vocaboli, ha più struttura rispetto al 2.5. Però io so, devo ancora trovare un po'. Anche se poi, tra l'altro, sto un po', diciamo, rallentando da questo punto di vista, perché ho dei progetti che voglio finire, perché oramai l'ho iniziati. Però ci ho passato troppo tempo sopra su sta cosa, e devo dire la verità, un po' alienato anche un po', devo dire. Però io capisco che tu hai trovato un metodo, cioè tu sei partito dalla correzione bozze e adesso lo utilizzi proprio come assistente di scrittura, e poi ci ripassi sopra facendo quello che non fanno in tanti, cioè quello Gemini gli scrive la roba e la lasciano così. Mi è capitato così. Proprio l'altro giorno, io sono iscritta alla Tolkien Society e ogni due mesi mi arriva una rivista, e proprio l'altro giorno ho letto un articolo scritto benissimo, non c'erano errori, non c'era niente, anche perché ormai l'LLM scrive abbastanza, a parte le ridondanze, sì, le cose, però insomma, grammaticalmente è difficile che trovi degli errori, è vero, quindi è vero. Era scritto in maniera perfetta. Però si vedeva che era uscito paro paro da un'intelligenza artificiale. Questo ci deve pone anche, perché se noi diciamo che l'intelligenza artificiale è addestrata su tutto quello che noi abbiamo scritto fino adesso, da adesso in poi sarà addestrata su quello che scrive lei. Sì. Che e infatti è, questo era un problema che già si ponevano mesi fa in America. Che è una cosa seria, che ci diventa serio sto problema, no, oggettivamente. Poi è vero che mo adesso stanno nascendo tutta una serie di modelli completamente diversi di deep learning, di cose insomma logiche basate proprio su principi diversi, quindi magari ci saranno evoluzioni da questo punto di vista, però adesso un po' insomma diciamo che è un momento di grande crescita, allo stesso tempo è una crescita un po' così, sì, te do una botta a te, tu me dai una botta a me, non è così esplosiva sta crescita, no? No, però io devo dire che per me l'intelligenza artificiale è stata una rivoluzione incredibile, in senso positivo, okay. Perché mi ha dato quella spinta per poter continuare a scrivere senza rimetterci, che non è poco. Ok, allora ci sentiamo il penultimo brano, torniamo per i saluti e poi lanci il brano finale. Diciamo okay. Così. Oppure tu hai ancora cose da dire? Avresti voluto dire altre cose? Nei saluti finali presentiamo i libri, quelli che sono disponibili sia per l'acquisto digitale che quelli cartacei. Sì. Okay? Ok? Quindi facciamo questa cosa qua. Poi io annuncio i prossimi gazzilli che andranno in onda su Runtime Radio. E poi ci salutiamo con l'ultimo brano che tu hai scelto, e ci dirai anche perché l'hai scelto, perché l'ultimo. Ho capito che ci tieni molto, insomma. Bene? Sì, ok. Vabbè. No, deve andare bene comunque. Sì, va bene. Ok, scusa, ho sbagliato io. Mi parlate, mi fate fare 50 cose, io spingo cose stupide. Mi perdoni che non c'è più la canzone? Io sì. Va bene, uguale, no? Va bene. Intanto c'è quella dopo. C'è quella dopo. Allora, intanto presentaci i libri che sono disponibili anche in cartaceo e in italiano, così almeno, dato che oggi ci rivolgiamo prevalentemente agli italiani, insomma. Sì, oggi ci rivolgiamo agli italiani. Noi abbiamo fatto una foto prima, ci sono le copertine, ma anche nella copertina della puntata ci sono le copertine, quindi insomma. Allora, si parte dal libro zero della serie Il codice del vigilante, base 9001. Salvini. No, che c'entra Salvini? Non lo so, sarebbe, no? I leghisti c'erano quei vigilanti una volta, so se. No, non c'entra niente politica, niente politica. No, ma scusa, ci sarà la politica, ma non quella, ma italiana, sì, dai, insomma, volevo, è quella del sistema solare, la politica. La famosa politica del sistema solare. La politica del sistema solare. No, vabbè, dai, scusa, scherzavo, dai. Quindi vuoi tutti i titoli? Sì, sì. Le cicatrici della perfezione, libro 1 della questo stessa serie. Ok, quindi non è lo 00, invece come si intitolava? Base 9001. Base 9001, è quello che dicevamo prima. Il caso dell'adulterio. Ok. Libro 2. Vai, ti sento. Il fuggitivo è libro 3. e Destini incrociati è il libro 4, il libro 5 è in produzione, il libro 6 pure. E... Che fai, due libri insieme? Certo, anche tre. Non ti incasini? No, così. Non mi incasini. No, io ci ho provato a fare. Anche tre. Perché a me poi, mentre che faccio una cosa, mi viene un'idea e ne fa inizio un'altra. Quattro adesso, sto lavorando su quattro progetti. No, sarebbe possibile. Ictus proprio mi esce il sangue dall'orecchio a me, proprio, una cosa così. E poi c'è questa raccolta di storie brevissime, non so come si dice in italiano, flash fiction, storie lampo. Sì, racconti brevi. E sono brevissimi. Racconti brevi. Vabbè, okay. Racconti brevi particolarmente brevi, vabbè, facciamo così. Ok, particolarmente brevi. Okay. Anche si intitola Oltre il portale. Ok, perfetto. Però questi sono già ovviamente disponibili. Questi sono tutti disponibili in cartaceo, okay. E tranne Destini incrociati, che è l'ultimo che ho pubblicato. Belli poi, comunque. Questo qui è disponibile solo cartaceo per adesso, in ebook e in preordine. Ok, però dice fanno comunque effetto, no? Vede il proprio libro stampato. Decisamente, no? Sì. È figo, no? La soddisfazione. Va bene. Io spero che tu sia contenta di questa intervista. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Certo, non potevamo approfondire tutto, perché chiaramente poi insomma dobbiamo rimanere pure, per quanto ce ne freghi poco, in dei tempi accettabili. Però io ti ringrazio di essere stata qui con noi. Grazie. Hai visto che era la cosa molto meno terrorizzante di quanto potesse sembrare, perché poi ti sei diciamo trovata confident, insomma. Traduci che... Confidente, non lo so, si traduce. A tuo agio. A mio agio. Okay, okay. A tuo agio. Detto questo, ragazzi, grazie di essere stati qui con noi. Noi questa sera ci andiamo a mangiare una bella pizza. Vi ricordo che questa sera alle 23 in streaming su Runtime Radio c'è la seconda puntata di Knox in the Night. Alle 23.30 uscirà in podcast. Vediamo come esce in podcast, perché ho fatto delle cose, ma grazie al suggerimento di Walters Ben. E poi domani ricomincerà un po' tutto quanto l'ambaradam di questa nostra sgangherata radio. Vi ricordo che invece domani sera alle 21 sul canale YouTube di Archeologia Informatica faremo l'unboxing del Commodore 64 Ultra, o Commodore 64 Ultra, giusto? Dirlo com'è, eh? Okay. Faremo l'unboxing, quindi partecipate, potete scrivere direttamente in chat e usare la super chat, fare le donazioni, che ragazzi Runtime Radio ultimamente non va bene questo che state facendo, ci state abbandonando. Non è vero, anzi devo dire che oggi ho aperto PayPal dopo tanto tempo, devo ringraziare un sacco di gente, solo in questo momento non mi ricordo. Detto questo, grazie a tutti, grazie a Keila, che adesso ci presenta l'ultimo brano che con quale, e ci spiega anche perché vuole quest'ultimo brano, perché ci hai proprio tenuto, insomma. No? Sì. Vabbè, sai che mica t'ho tirato un libro in testa. No, non ho mai tirato un libro in testa. E è un brano dei Blind Guardian, che sono il mio gruppo metal preferito. È il mio brano preferito del gruppo. Ed è uno dei più lunghi, tra l'altro, che hanno scritto. Ce n'è qualcuno ancora più lungo, quindi t'ho salvato. Quindi accontentatevi, esatto. L'ho salvato a tutti. E niente, è ispirato a un videogioco, Secret 2 mi pare. Sì, e si intitola Secret World. Ok, gioco di merda poi, giustamente. Gioco dicono che è di merda, io non lo so perché non videogioco. Io mi ricordo che era un gioco di merda. Però i fan dei Blind Guardian lo apprezzano. È più Shuren, che magari se lo ricorda meglio. Io non l'ho mai giocato, lo conosco ma non ho mai giocato. Detto questo, ancora grazie. Ciao e in bocca al lupo per tutto. Grazie al lupo, grazie a voi. E dagli con la canzone. Ciao ragazzi.